questa è un'ottima notizia, una buona notizia. Finalmente un po' di rilievo anche a noi, che siamo atleti a tutti gli effetti come gli uomini. Altro che Valeria Calabrese è appunto una delle azzurre che si giocherà la qualificazione olimpica e la possibilità di salire sul ring di Londra. In che categoria, Valeria? 51 kg, è la più bassa che è stata confermata per queste prime Olimpiadi, perché sono solo tre categorie purtroppo, 51, 60 e 75. Essendo io una 48, non mi resta che provare la 51. Quindi, insomma, c'è anche il gap del peso, nata a È più che Modena. altro dei centimetri, non tanto del peso, dell'altezza. Eh sì, perché i 3 kg, vabbè, non è un grosso problema, ma Infatti. invece le avversarie sono decisamente più altine, Sì. Beh, insomma, sentite dall'accento di Valeria la sua origine siciliana, nata a Modica, in provincia di Ragusa. Come ti sei avvicinata alla boxe, Valeria? Perché, insomma, lo sappiamo, in Italia siete veramente un numero ridotto di donne che salite sul ring, anche se in continuo crescendo, no? Sì, io ho iniziato con la kickboxing, che ancora tutt'oggi pratico, e ho iniziato il pugilato nel 2006, perché facendo degli sport già da combattimento mi è venuto facile inserirmi nello sport, in questo sport, diciamo, il pugilato, perché comunque si tratta di sport da combattimento. È vero che siamo un numero molto ridotto in Italia, è vero anche che invece a livello internazionale il numero delle atlete donne è in fase di crescita paurosa.